l'aperto, muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile leggiadro viso, in pianeta in riso e menzognero, la donna immobile, qual più al vento, muta d'accento. Chi su quel senno leva amore, la donna immobile, qual più mal